Tu pierdo su nangoppe e giornalette e mamma te minaccia e patata s'arraggia. Te fanno girare la capa sti fumetti, guardandoti in due specchi, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in un studio chiuso. Torero, te si piazzato in capa sto sombrero, dice che sei spagnolo e non ne ho vero, che nacchi in da sacca per ballare, mescolando polere e ciacciachi o imbrugnatore. Questi basetta sudamericana, con un sigaro a vania gamma se le picche, torero, torero, olè! Ti fatta giacchetella corta corta, o casuncilla stritta, e un riccioli in fronte. Te ridaggia in da rete e non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, e innamorata tu e non te vuoi chiudere. Torero, e levati la capa sto sombrero, non si spagnolo e non si cavaliere. Stinnac, tu non ne sai suona, e stinnac, tu che ne fa belle mamma. Torero, questi basetta sudamericani, con un sigaro a vania gamma se le picche. Torero, torero, olè! Con un sigaro a vania gamma se le picche. Torero, torero, olè! Con un sigaro a vania gamma se le picche.